litro, quelle vola 250, quelle piccoline, 3,50 euro, giusto, anche se mi diceva 10 euro avrei pagata, talmente ero distrutto. Minchia, 3,50 euro, 7.000 delle vecchie lire, che ebreo. Ma ecco, ma stavo morendo di sé, proprio quando hai consumato tutti i liquidi, non mi ricordo mai in vita mia di aver fatto una sudata così, così affaticante, ma proprio da morire scendendo, non tanto a salire peggio, ma a scendere uno dice, le gambe a pezzi, sono arrivato giù, mi tremavano tutte le gambe, non avevo più, ma sai che mi sta succedendo qua? Sì, sì, sì, guarda, quella sensazione l'ho provata. Il bello è che questo amico che mi ha portato se la stava ridendo, perché la prima volta, vabbè, non come se il posto, la seconda volta, come siamo arrivati sul posto, ho detto, ma non sarà quello con la parete a picco e la scala, bastardo, l'ha fatto apposta. Però bene o male sono tornato vivo, troppo impegnativo col caldo dell'estate. Bene, roba, io devo necessariamente staccare. E poi sentiremo quando capiterà. Sto entrando ben poco. E non mi manca più di tanto, tanto qualcosa da fare la trovi sempre. Buon tutto, allora io tengo acceso qua, rimango il Borrix, se nel frattempo vuole entrare qualcuno, sono, faccio un giro in altre frequenze, faccio un po' di ore e poi vado a fare altro. Dai. Ciao ciao Marco, alle prossimine. Ciao ciao, buona serata, ciao. Attenzione 10, c'è qualcuno che vuole entrare? Ora? Troppo forte, non te l'ho riconosciuto, ho detto, troppo forte, ho detto, non è né Antonio né Luca. Siamo partito poco fa, c'è, ci sono quelli delle 500 della 1, su canale 1. Delle 500? Sì, è la 1 delle 500. Sono sul canale 1 guardando, stiamo scendendo dalla parte tua adesso, per andare forse in nord, non so. Ti devo questo battimento strano. Controllano con lo scala, Canale 1, che cos'è? Che cos'è? Canale 1 27, io 27 stavano parlando, anche stamattina mi sono passati sotto a casa, sono andato al rifornitore da Kuwait, vado rifornito, c'era almeno una decina di 500, c'era. Oggi c'era il circuito Baia delle Ninfe, ma era da Alghero, macchina d'epoca, ma il 500 è buono adesso. Sì, il 500 macchina d'epoca. C'era. Non so se stavano andando al Ghero, non lo so dire. Devi questa mattina rifornire di qui alla Curia. Vediamo se abbattiamo un po' di oggi, che cavolo c'è? Controllo e mi sono visto tutti questi qua quando andavano le macchine piazzate. Tutte queste 500. Sono stata almeno una decina. No vabbè, sono uscito molto tardi stamattina, ragazzi, non sapevo niente, non me ne hanno detto, sapevo solo questo di Alghero, della Baia delle Ninfe. La verità non so se stavano andando a Alghero, comunque sono passati via Calofenice, la via Calofenice sono passati via Barrabasso, la via Barrabasso, la via Milano, in pratica sono scesi lì, poi dove stavano andando non l'ho capito. Come state uscendo adesso, Antonio? Con 3009. È un bel forte la radio. Lo so che è bel forte. Ho fatto la FM500S, gli Arduino, l'altro giorno c'avevo l'FM500S. Oggi l'ho messo lo spinotto di dietro, l'orientazione. Perché mi mancava. E l'ho fatto nuovo e adesso l'ho agganciato. Questo già funziona bene. Oh, va benissimo, bella chiara, forte, nessun difetto. Salerta è sempre Salerta, va bene, è sempre andato bene questo microfono. Esce meglio dell'MB più 4, la verità, spinge molto di più questo, sia in questo apparato qua che nel Connex 4000, in quello che c'avevo una volta, io ti ricordi il barattino che avevo venduto poi Antonio Bombolo. No, questo è per perfetta, non posso dire niente di questa radio. Certe volte trovo che è troppo forte, saturo, distorto, invece allora sì, perfetto, come piace a me. Stavo usando vediamo quei giorni là, sono sceso io e Giovanna, c'ha questo macchino in carrozzino e con lineare, e almeno parlo anche lì un pochettino la sera. Non sa cosa fare, accende il materazzino con caldo accesi e si rinfresca un pochettino. Ma riesce a uscire perché da lì col lineare non crea problemi? No, non è un problema. C'è un'altra una fatta a filo che è stata nel terrazzino, capito? Non è messa in verticale, l'ho messa lungo il perimetro del terrazzino, capito? In orizzontale agganciata la plastica. Non c'è nessuna fonte di metallo vicino. Perché se c'è lineare poi male ti fanno rientri e ti crea problemi se non è fatto bene. No, già funziona bene con lineare, è perfetto. Grazie a Dio l'ho trovato ieri e funzionava benissimo. Stavo parlando con lei ieri sera, anche l'altro giorno avanti deve essere lineare. Ieri l'ho pensato. 100 watt, voglia, già basta la banda. Va bene, siamo talmente vicini, io l'ascolto forte, siamo attaccati. Appunto siamo attaccati, siamo vicini, io sopra, lì sotto e tu di fronte. A voglia. È un bel coso, Giovanni Bracco, quello ce l'hai di fronte allo stesso, mia. Linea Varia, non dico se sia più vicino di me, può darsi pure che lui sia vicino più a te che a me, lo sai. Probabile, se... non so dove sia Giovanni Bracco, se è in zona polizia, non lo so, la verità. Ma la parte alta di via Togliatti dietro, una traietta che c'è dietro. Ah, capito, allora è più vicino, cioè, di fronte sei più vicino tu in teoria, la verità. Forse sì, dai, forse appena più coso. La cosa strana è che Fabio siamo proprio attaccati. Io certe volte lo sentivo 9, dicevo, ma è possibile capire, a te arrivava 9:40, a me mi arrivava 9, tutto distrutto, perché c'era l'antenna collegata in terra, e la reazione è completamente negativa verso di me, però eravamo talmente vicini, forse lo prendevo di riflesso, boh. E Fabio si era agganciato l'antenna alla finestra una volta, e usciva bene, c'era la Turbo 2001, quella lunga, poi mi sembrava avesse terrazzino e poi vabbè, adesso non so cosa, non ho più sentito cosa c'è. Comunque anche lui già è vicino, molto vicino a te, Fabio. Fabio appena che cosa ti posso dire? Quasi un pochettino più giù del Conate, hai capito? Quindi figurati, in quella via che rimane chiusa. Lì una volta ci abitava Giampaolo Mandracchi, ti parlo degli anni 70, abitava lì lui. Non lo so dove abita, vicino, cioè so proprio esattamente dove c'è l'antenna, siamo attaccati, cioè io penso che saremo 200 metri, 250 metri non di più di distanza uno dall'altro. E infatti, vabbè come dice anche un CB che adesso vedete proprio non entra. Che modulava, quindi figurati, c'è ancora la moto valente esatta, già c'è il suo CB, anche Michele Sidiuno abitava lì, non so se ci abita ancora. Michele non abitava su vicino al sanatorio. Se abita lì non lo so adesso, ma una volta abitava lì, Michele Sidiuno. È quello che c'era a Carbonazzi, te lo ricordi qualche anno fa c'era uno a Carbonazzi che modulava, adesso non mi ricordo il nome, c'aveva però il dipolo lui, un affilare. Vabbè, lì a Carbonazzi c'era Brento Beckenbauer, che pare che parlava Baracchia, poi è entrata anche Fabiana, che modulava, poi modulava il fratello Alessandro, che abbiamo fatto di usare il dipolo, terrazzino. Mi pare che si chiamava Alessandro questo qua, ma poco, mi l'ho sentito poco. Io l'ho visto 2 anni fa, l'ho visto la verità. Mi ha detto siamo a Baracchi, mi ha detto no, Baracchi non è, mi ha detto portate perché già avevo, dice mio fratello sono venduto. E quindi io ho detto ce ne vuoi uno, e Baracchi ma come passa a casa, tu lo fai. Ha detto non ne facevo niente, non 40 carati. Ho fatto al limite già ci passo, non si è visto per niente. Ah, poi vabbè, qua vicino c'è anche Fabietto che parla baracchino, capito? Vicino a quella palazzina marron che c'è scendendo qua, dove passa la 6. Fabietto chi? No, Fabio Maffer. No, Fabietto, proprio baracchino. C'è il furgone, c'ha, capito? Furgone della SDA. Ma c'era stata la base pure? No, il baracchino c'era a casa, il furgone era tolto. Non lo usava quasi mai e siamo portato a casa. Se la linea era attiva la penna. Diciamo che la linea che l'ha piazzata lì. C'è una mantova, l'hai vista in via Fermi alla fine, proprio alla fine di via Fermi, si alzi la testa, c'è quella rotatoria, c'è una mantova in quel palazzo lì. E quella di via Fermi di Antonio faceva tassista. C'è la mantova, c'è anche una saldata, come si chiama, ci sono due antenne, una a fianco all'altra, quella c'è un sacco di anni, non è mai caduta quell'antenna, è pensata bene. È la di Antonio, cazzo, mi deve mettere il nome attivo adesso. Antonio del 20. Boh, non lo conosco, non l'ho mai sentito nominare. Ma se guardi in giro di Mantova ve ne sono bene, in un po' di zone ce ne sono. Poi c'è quella che c'è una vita, la Teroccia, al chilometro, l'ha mai vista quella che alzi la testa alle luci gialle, di Carechis. Quella non c'è più quella Mantova lì, è morta, è la capita passero quello che stai dicendo tu. Ah, poi ce n'è una più giù, lì alle luci gialle, quella di cosa? Di. Della moglie di cosa, aspetta, come cavolo si chiamava, che parlava baracchino anche lui, che non sta piantando adesso, c'è qualche muto quello. Ma quella Gabriella Passero già lo so, ma è morto pure, sto parlando quella alle luci gialle, cosa è via Pirandello, quella via lì. Già ho capito di chi stai parlando, in pratica c'è il ragazzo di Anna Bambolina, cioè che adesso è il marito più che altro. Sì, poi alla Teroccia lo stesso, ce ne sono al centro Zurico, ce n'è uno lo stesso di antenna vicino a Grattacielo, se ne vede uno a Grattacielo Nuovo, dritta lì c'è un'antenna. Quell'antenna che c'è vicino a Grattacielo di corso, di quei due guasti che c'avevano la radio privata, uno è morto, l'altro è ancora vivo. E che radio privata sta dicendo? L'antenna 2000. Come è morto? Chi è morto quel caso? È morto uno dei fratelli, Danza, e poi è morto anche Tanda, l'altro, l'amico suo, quello che capitava in parallelo nella cosa, a Vela Marmora. Io conosco tutti e due i fratelli, uno era Fiso, quello assai grosso, e poi Leonardo, chi è morto dei due? Leonardo è ancora vivo, se infatti c'è la pagina Facebook, c'era scritto poca di cosa strana, e fa pochi lavori, cazzo, Marengoso, Bari, cazzo, Podestanti, Bari, il fratello di cosa è morto, ma chi? Io li conosco tutti e due, quello che c'era la radio era Leone Coso e Fisio, quell'altro è Grusso, e poi c'era Leonardo che aveva l'agenzia di tipo moda, faceva eventi e cose del genere, chi è morto dei due? E Fisio mi pare che Leonardo già è vivo. E cosa è morto? Non lo so, so che mi hanno detto che è morto, capito? Ha giurato, ma c'era il masso, ma com'è ha giurito? Mi dispiace, ma io lo conoscevo quel ragazzo, gli avevo dato anche delle cose, avevamo fatto delle scambi, conoscevo la radio io l'avevo dato nella testatura, avevamo fatto scambi, lui aveva dato una mano a fare delle cose a me e io gli avevo dato delle attrezzature per la sua radio. E per quello che ha spento Radio Antenna 2000, che è spenta da, sarà spenta almeno dall'inverno scorso, sarà verso ottobre, novembre che è spento. Guarda, io manco la sto ascoltando le radio, figurati, è solo un giorno che non uso la radio a ascoltare, sono manco che va chiuso, di solito era sempre in discorso, in trasmissione, se si è spenta adesso lo posso dire, magari mancanza di soldi, cosa ne so, o perché è molto il padrone, magari non se l'ha sentita, tanto fate la pietra, se hanno rotto tutto. Ma i soldi ci vogliono adesso, pagate l'orario. A meno che non cambi la legge mammi che è stata fatta da Berlusconi, che ha rovinato tutti. Sino prima era pieno di orario, ma pieno, mi c'era uno ogni 50 metri, c'era un trasmettitore in giro per Sassari, e ci liberti qua per ovvia a trasmettere. Ma io allora lui c'è la frequenza 92.600, c'è la postazione a Montoro, perché lui trasmetteva da Gussisini in microonde, andava a trasmettere in diretta e lì c'è tutta l'attrezzatura, aveva anche delle belle attrezzature, usciva con 500 watt. Infatti per quello non ho più sentito verso ottobre novembre, ho detto cosa è successo questa era, detto, probabilmente si è venduto la frequenza, perché quella frequenza è molto ricercata adesso, nel senso che a Sassari doveva entrare una radio nuova. Pure peccato se non riescono a fare i soldi, perché non so che dirà che ti date se c'è una frequenza censita, un bel di soldi. Io ho amici che l'hanno venduta, ma se ne va un bel di dinari. Io lo so. A me, io ti parlo di tanti anni fa, nel 90, qualcosa del genere, cioè, avevo preso tutti i kit 4x4 da CT, avevo conosciuto tramite UCB. I proprietari di Rete 105 avevano fatto la proposta se in via di sede piazzavo ripetitore, mi davano la frequenza loro, mi davano tutta la trattatura, io avevo solamente loro mi pagavano anche l'affitto, dovevo dare solamente io metterci le apparecchiature in massa per basta per fare un'antenna, non dovevo fare altro. E mamma ha detto, se pensi una cosa del genere ti sbatto fuori. Allora ho preso e non ho fatto niente. Se no quest'ora sarei stato anche io con tutta quella attrezzatura, capito. E invece mamma era attestata, a quest'ora avrei fatto i soldi. Allora, a me la fregatura mia, io avevo censito, dichiarato, denunciato la frequenza 99.500 MHz, denunciata tutto con tutte le attrezzature, tutto regolare, alla polizia, alla polizia postale e tutto, alla regione, tiravano dovevo indicare tutto quanto, cioè, non sono riuscito a trovare la denuncia, c'è una persona che lavora di lì dentro, che conosco, ho detto, ma c'è la cerca, siccome era venuto qua a Postiglione, ho detto, cosa Postiglione? Mi ha detto, guarda che c'è una radio che sta cercando la frequenza, recuperati la frequenza, ti metto in contatto io e poi ci mettiamo la... Cacchio, l'ho buttata a terra tutti i documenti, tutto quanto, sparita la denuncia. Ho chiesto in questura se per caso la recuperavano, niente, dice dopo 10 anni noi la buttiamo, il cartaceo lo buttiamo via, adesso è tutto in digitale, ma allora era tutto in... Sono venuto 10 anni fa a Postiglione, era ancora vivo, e mi ha detto proprio di questo, cacchio. Guarda che ti faccio entrare, vieni qua, facciamo mettere un circuito di coso, ti vendi la frequenza, perché di lì se tu c'hai la frequenza, sei salvo, non devi fare denunce di nuovo, di cosa, perché ci vogliono 18 mesi per avere una frequenza nuova, sempre che te la trovi libera. A Sassari, vabbè, adesso già ci sono, però io ce l'avevo censito, cacchio, me l'ho mangiato le mani, è venuto pregandomi con cercala, che ti faccio recuperare i soldi, non ho trovato da nessuna parte, e mi dispiace, a me qualche spicciolo me l'avrei ricavato. Lo so, già, purtroppo fanno le cose, poi mettiamo i documenti da una parte, ce li dimenticavo dove li mettiamo, e ce li mangiamo le mani, purtroppo è così, capita così, non ci possiamo fare niente. Non è visto a me, è capitato invece che mi facevano tutto loro e di via di sede, mamma ha detto no, dice se piace una cosa, questa roba qua mi ci si butto fuori di casa, mi ha detto allora ho dovuto lasciare perdere, se no questa l'avevo avuto licenza, tutto, mi avevo fatto tutto loro, mi avevo fatto, capito? E invece mi è andata male. Lo so. No, ma me, io conosco un amico mio, lui ha dato la frequenza, a parte non parliamo di Mondo Radio che si è fatto un bel di centinaia di milioni, la frequenza che ha dato a Radio DJ, un amico carissimo, gli hanno dato allora 70 milioni, lo so, vuol dire una frequenza del 101 dove c'è Radio DJ, 70 milioni, ma quello Arghito aveva dato la frequenza a cosa? Non mi ricordo, non Arghito, dove c'è 98.9, dove c'è adesso, che si chiama, Bella Vita, si è fatto un bel di là. Quello del 101 e 300 adesso ha fatto un bel di soldi, Radio Sound, tutta quella gente lì, se hanno fatto una marea di soldi. Allora costava un sacco di... bastava per la licenza, poi vendevi, ti facevi questa commissione. Vabbè, cosa anche tu, la moglie ci ha venduto tutto perché era in passivo. C'aveva un sacco di debiti per colpa di quel ripetito che aveva installato e consumava come un coso, che un treno sembrava. Allora ci faceva più i debiti appeso e molto lui ci ha venduto tutto la moglie. Poi se c'è postazione, mi c'è con l'amico mio a Monte Oro dove ci sono tutte le stazioni private, se si è fatto d'oro. Non parliamo di Fusaro, cosa ha guadagnato lui, adesso non so se ce l'abbia ancora i ponti, se ce l'ha venduti, ma lui affittava le postazioni, c'aveva tutti Badi Urban, Alimbara, Coso, Serpedì, tutte le postazioni migliori della Sardegna ce le aveva lui, ma stiamo parlando dagli anni 70, quando è nata le private, 75 eccetera, si è fatto d'oro in Chivi, perché c'aveva stato il primo agli alburi, poi quando ripeteva tra Monte Carlo a vedere quanto gli davano, però ha fatto una bella storia. Io ho visto le parabole, ce le ancora sotto nel coso, quelle parabole in acciaio grande da 3 metri che peseranno 60 kg l'una, ce l'avrà, dovrò prenderne una io per fare il satellite, poi alla fine ha detto no, sono troppo bizzante, ce le aveva ancora, non so se le hanno buttate via. Chi sa, pieno di parabole e tradizioni abbandonate. Stanno passando verso i militari, sai quanto mi buschi di quelle parabole? Oh, è pieno. Allora, da poco me ne hanno regalata una di una postazione che l'hanno tolta, una sarà un 2 metri di coso, però lavora in orizzontale questa, non in verticale, come cioè inclinata, era per da punto a punto il microonde, infatti lavorava in microonde questa qua, non era per ricezione, per trasmissione, era per lavorare da poco, trasmettere un trasferimento, ce l'ho ancora, infatti detto, quando mi capiteggia qualche radioamatore che vuole fare qualche collegamento satellitare, una con la 180 l'avevo data a un radioamatore. Quanti anni fa? 7-8 anni fa, la verità ha fatto un affare con la grande, no? Della Irte, questa bombellina a spicchi gliel'ho data insieme al tripode, che quello da solo costava 300-400 euro per fissarla. E c'è quest'altra adesso da. Non mi sono interessato a venderla, però è un'antenna professionale di coso, che la utilizzavano per i trasferimenti. Buonasera. Guardate come è. C'era qua vicino l'antenna, dove c'era la Renault, c'era presente, sale dal quadrato, lì c'era una parabola che era abbandonata, fai altro che andare lì, chiedere che parola, sale su, te la attacchi e te la scende giù, dovrebbe essere per trasmissione quella, perché ho visto che c'è un illuminatore un bel grosso, cioè, capito, e c'ha tre stecche. Allora io di antenna, a parte quella lì la conosco benissimo perché abbiamo acquistato qualcosa di lì, era di Ottolini quella roba lì, c'è cosa all'alza, non mi sono interessato più di tanto, però se vado il problema non sarebbe con l'antenna a smontarla, te la regalano pure, nel senso tu dici poi fra di zira, perché adesso devono coltivare e buttano tutta a terra, il problema è buttarla giù l'antenna. E poi ne ho un'altra di una signora nella zona dopo la Budibudi per la strada di Sorso, dove c'è il distributore della Fina, c'è una parabola da 2 metri e mi sta sempre pregando di smontargliela perché è troppo grossa e ha paura che ne butti in terra la casa, perché è una villetta, anche se non gliela butta perché è tutto il cemento armato, hanno fatto un lavoro eccezionale, però lui non se ne frega perché c'ha la piccolina, dice a me mi dà fastidio perché qua quando ci sono il vento si sente proprio fischiando, e lei non ha motorizzata, questa signora anziana, infatti gli ha provato, guardi già a posto, si deve andare con la moneta, tranciare nel palo, andare con 3-4 persone piano piano e farla scendere, perché pesantemi, quella parabola che non sono di quelle di adesso, leggere, sono quelle in resina, belle pesanti. Già le conosco, sono le prime che si usavano per i canali 5, ci voleva la parabola da 2 metri, ci voleva tutta in vetro resina, gli abbezzava a poco già. Già l'hai vista la mia, quella grande è da 2 metri in resina della Rover, a quattro spicchi, guarda sulla parabola non peserà secondo me non meno di 40 kg, è il motore a cardano, a coso, non è a pistone, a coso, orizzonte su tuo orizzonte, a cardano, in ghisa, non so se non pesa meno di 40 kg, di bussi, quando l'avevo piazzata, mamma mia, già me la voglio ricordare, poi talmente precisa, basta che sgarri di un millimetro è finito, e poi c'è l'altra, quella fra carro, 130 35 in alluminio, l'ho testo motorizzata. Adesso devo salirne, c'è il motore puntato, sono andato a muovola perché era sempre ferma in un satellite, sono andato a Mubio, ho fatto un paio di giri tu ed è andato in blocco, vuole smontata, pulita, se riesco a fare nuova ci avrà un 4 anni quella quattro, ne avrò cambiato già 5 di quelli. Purtroppo col tempo, quando rimangono ferme, adesso devo smontare, fare la manutenzione, il pistone se ci riesco, se no se vorrà quando ne prendo un altro nuovo. Ah, beh, se si sembra che non la usi, ti sei tranquillo perché come le comprati il motore nuovo, io sai che stai a lubrificarlo e a pulirlo, non vale più la pena, magari tu i denti firmati di letto. Sai quanti ne ho cambiato? Una marea. Questo sembrava migliore degli altri perché sono salito a vederlo, è buono, non è, si arrugginisce, c'è una vita senza fine e col tempo si arrugginisce, purtroppo le fanno in ferro e l'ho tutta lubrificata, fatta bene, siccome era tutto l'inverno l'anno scorso è puntata a 45 gradi ecchi, c'è un canale dove danno le partite in chiaro, c'è dove danno la Coppa dei Campioni e poi io ho uno, due, tre ne ho di parabole, una puntata a 16 gradi e le altre due motorizzate. Questa qua l'avevo lasciata, l'altra motorizzata l'ho messa a 45 gradi su che cacchio satellite, adesso me lo ricorderò, testato, mi sembra che sia a 45 estri, l'inclinazione sempre ferma lì, che non mi interessava, sono andato l'altro giorno, adesso la sposto, voglio andarmene a fare una carrellata negli altri satelliti, stava camminando, poi sono tornato indietro e errore, movimentazione parabola, che cacchio è successo? Ho detto qua di nuovo bloccato, perché c'hanno un sistema che funziona l'assorbimento, quando c'è troppo carico il motore delle cose del ricevitore ti va in blocco, ti dice error, posizionamento parabola, allora devi smontarla, pulirla se ce la fai, se no cambiare tutto, ma questo è abbastanza nuovo, sicuramente ci riesco, solo che in un afferratorio dopo a fare tutte le impostazioni ci saranno minimo una cinquantina di posizioni satellitari da memorizzare, lo sai, cioè, ci vogliono ore per farlo, già c'ho il misuratore del campo, però è sempre una ferratura, con l'analogico era più veloce, col digitale è una guerra perché sono tutti uno attaccato all'altro, magari tu sei convinto che sei su quel satellite dell'altro che c'è vicino. Dai, già è vero, io sono un giorno, non penso più parabole io, una volta dall'ava, adesso non ci sta con più su quel petto, manco a coso, preferisco rimanere a casa, tranquillo, non sai mai in che tetto vai, se sei sicuro di tornare indietro, il discorso è quello, una volta c'è voluta che ci avevo, adesso ormai c'è a 59 anni, se la piglia in culo la parabola e coso, se piazza, la piazza solo per me, da 90, col motore e basta. Nel tetto mio, nel tetto degli altri ormai non ci stacco più, manca installare le antenne che non ne vale mai con la pena, per 50 euro cagate, cazzo, poi magari ti trovi, cazzo, se strappi non ti paga nessuno, perché fai lavoro in nero, poi adesso con la questione di questa cosa che sto pigliando io, basta che io vado a casa di un finanziere, mi dice che lavoro fai, faccio il tecnico. Mi chiedo dove cognome, cazzo, magari scopre che sto soppiando qualcosa e mi denuncia pure. Tanto sono poco calimuti questi finanzieri. Basta che non paghino, capito? Stanno bene. Ma montare le parabole motorizzate non è semplice, ci vuole esperienza, te lo dico, io ne ho piazzato tante, beh, un bel di niente improvvisata, non sa manco da che parte andare, una cosa montare short build o asta, pigli, attacchi e vai, ma se devi fare impianti grossi tipo quella che ho io, a parte non ce ne sono più di impianti così in giro, forse in tutto il sacco ne avrò visto due, forse ce n'è impianti motorizzati e gli altri sono tutti fermi da secoli, e piazzare la parabola a 2 metri la centratura è un travaglio, ti sto dicendo, molto, solo col misuratore di campo riesce a fare un analizzatore di spettro che ti dà l'intensità, perché è una cosa talmente sensibile che basta un millimetro di errore e poi ti sgarra tutto completamente. Ricordo quando l'abbiamo installata, era soprattutto la grande, mamma mia, un altro tolleranza minima, 0,5 gradi di tolleranza, ed è una cosa impercettibile. Bastava che la signora, il palo deve essere perfettamente a piombo, se no sgarri. Con quella piccola 135, anche se c'è mezzo grado, un grado di errore, riesce ancora a agganciare, ma con quella grande, la primo fuoco, se tu non la centri bene, perdi tutto. Per dire, prendi bene al centro, ti sposti agli estremi e non prendi più nulla. Infatti bisogna stare molto ma molto attenti quando li fai quei lavori lì. Quando stavo lavorando da usare che avevamo a Giorgio, per installare quelle parabole a due vetri, veniva lui, a lei ci penso io, vengo io con strumento, tu te lo sto facendo gratis, mi faceva. Va bene, allora andavo lì, gli mettevo le gaffe, le staffe eccetera, ben piazzate, a piombo. Una volta che poi scendeva lui, cioè, si pigliava la, diciamo, la tazzatura, tornava e faceva le calature lui. Capito? E non ho mai pensato di quelle radiometri, non so cosa vuol dire. Perché basta che per dire cara la, si fa storta la parabola in vetrovesina che non pigli più l'accidente. No, quella che c'ho io è una roba, cazzo, se tu la vedi è una cosa, una resistenza è costruita in un modo allucinante, c'è una costruzione, quelle di quelle dimensioni lì sono tutte da 180 in su, sono tutte microforate in griglia leggera, ma la resa che è questa, perché questa è piena, per cui è come che c'hai una 2,40 m microforata come guadagno, la stessa cosa. L'altra è un alluminio 135, è una fraccarro, e diciamo è buona anche quella come parabola. L'unico problema sono i pistoni, gli attuatori ogni 3-4 anni li devi cambiare perché ti si fraseggeggiano, mentre quella è a ingranaggi, in ghisa, manco la morta lo muore, però senti certi contraccolpi che prende quando ci sono quelle giornate di vento, senti proprio boom boom, tipo che li stanno colpi di mazza, però è talmente sensibile le regolazioni, quella lì se non le fai perfette hai perso tutto, diventa con peggio di una parabola da 50 cm in certe posizioni, perché perdi tutto, prende per forza l'arco polare, se sgarri di un millesimo è messo tutto, è troppo delicata la sistemazione, infatti abbiamo perso un sacco di tempo per centrarla, per provare, poi la controprova, ho detto, lo conosce a Giuseppino che era morto, anche lui faceva qualcosa, ho detto dai, vieni a controllare, l'aveva messa all'atta, anche lui l'ha messa, ci ha perso un po' di tempo, è stato più di 3 ore, alla fine era perfetta come l'ho fatta io. Sì, già lo so, sai che cambio alimentatore, hai sentito la cosa, perché questo è piccolino, vedo, è un bel bollente, capito? Aspetta due minuti, aspetta quello con la ventola che fa casino, quindi anzi no, aspetta, passo direttamente con l'FMC 500S che succhia di meno, questo succhia un bel, almeno si raffredda appena, aspetta un attimo, attacco l'FMC 500S. Tanto tra poco chiuso la zona, dai, ti aspetto. Via, 2 secondi. Sessore 10, c'è qualcuno nel frattempo? Ok, questa è la FM500S. Non ho fatto differenza, prova a parlare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, MB più 4. Ah, questo c'è un po' più scatoloso come modulazione, però già chiara anche questa, l'altra era molto migliore, questa rimane un po' più chiusa. Sì, vabbè, tipo FM500S che fa così. Poi MB più 4 ho dovuto cambiare la capsula perché quella sua originale va via il fifo. No, le ho messo una di coso, di video citofono per esattezza. Di quelli citofoni vecchi. Questa forse è un po' più amplificata, sento quello che c'è vicino, televisione o cosa è? La televisione è della camera da letto, capito? Ah, ma già è buono, già va bene. Parabole ormai adesso non se ne va più da nessuno, cioè, tutti hanno l'impianto fisso, sotto build, tutti Sky, non gliene ha fatti nulla di andare a cercarsi le partite, ci sono dei canali dove le danno gratuitamente. Le partite, tutti vanno con una parabola piccolina, è un controsenso mettere parabole grosse, però quando era in analogico, cacchio, prima dovevi metterti parabola per forza grande per vedere qualcosa di diverso, dai. Quando non c'erano ancora le televisioni, le PTV, quelle che davano le partite come ci sono adesso, perché quando ho iniziato io ancora non esistevano i canali a pagamento. E infatti già lo so, poi è nato Sky, anzi, ma di Sky è nato Stream, poi poi l'altro diavolo è la patata folla che poi è diventato tutto quanto Sky, ma adesso la cagata, ormai Sky l'agganci all'impianto del telefono di casa e guardi tutto in diretta senza parabola, senza nulla, che è molto meglio. Ogni volta qua è parato sale uno, cazzo, mi apre la scatoletta dove c'è l'amplificatore, comincia a toccare, a volte bene, a volte non bene, capito, ci ha messo l'amplificatore. E gli ho detto io, ma gli ho detto tutto che si aggancia la parabola, cosa ne fai? C'è il wifi a casa, si è comprato il circuitore nuovo, agganci direttamente al telefono, e ho detto che guardare la TV, ho detto cosa ne fai? Ma mi piace così, mi ha detto, e allora all'angia ha detto che ma che si con ogni mese per sistemare le cose. Io non lo sto neanche usando, c'è un ricevitore, quello della Sky, quello grigio, che ci ho buttato da una parte, poi c'ho quello della tele più, quello grande, te lo ricordi che scaldava, sembrava un forno a microonde, sembrava. Sì, ma ormai il futuro è quello, ormai è internet, utilizzeranno la parabola soltanto per fare i collegamenti dei punti, diciamo dalla stazione base a dove c'è l'evento, e buh, perché ormai adesso quasi tutto su internet, utilizzeranno poi delle zone in cui non c'è la rete internet, la parabola per avere il segnale internet, e buh, perché il futuro è quello, ci saranno meno costi per tutti gli impianti di ricezione, ecco, ti fa un abbonamento con il coso, tipo come stanno facendo adesso Netflix, cose del genere, anche Amazon si è acquistato diritti per trasmettere eventi sportivi e cose del genere, e poi alla fine tutti i punti ripetitori saranno demoliti, la gente che aveva per dire dei guadagni, i proprietari di terreno eccetera eccetera, alla fine li utilizzeranno soltanto per la telefonia, i punti corso, per avere la rete internet, e boh, sarà sempre più veloce, e le parabole saranno solo per utilizzatori di internet dove non c'è copertura di linea fibra o cose del genere, in qualche campagna, in qualche posto sperduto, tipo nella parabola ricevi di lì. Io c'ho un amico mio, lo stesso c'ha un abbonamento, non è italiano, lui tutto via internet, l'abbonamento non è a parabola né niente, lui utilizza la linea internet, l'abbonamento come negli Stati Uniti, i satelliti poco nuda ne trattano, a meno che non ci siano problemi di connessione internet, sono tutti via coso, via rete, le televisioni, almeno le principali. Io non so, vabbè, lì non è che puoi pensare a un'antenna 25 del TV sopra quel catalcino, non sanno che lì ci sono solamente i ripetitori per le TV, per le radio e basta, non c'è altro. Poi la TV l'abbiamo tutta quanto che a capo, tutto fanno l'abbonamento e in America, ma l'abbè di tempo quello, noi siamo dei tarattari in Europa, quindi adesso a quanto volevano fare, in pratica vogliono mettere la linea wifi direttamente, non usare il capo dove non c'è la fibra, mettono la parabola, tu prendi, ti punti lì con un'antenna e ricevi direttamente via wifi, capito? Come c'è anche, cioè, la parola funziona già, ma sa se so che devi fare l'abbonamento. Poi il tram c'era lo stesso, la linea wifi free, però lo so che da che punto è che trasmetto. E poi vabbè, io ne ho altri 3-4 qui e così, cioè Notte Calo Felice, lì si ci vuole la password e ci vuole la password anche da Kuwait, l'unico che senza password qui di fronte al wifi è quello dove ci sono i videogiochi, capito? Quando anche io piccolino che ho comprato dai cinesi con la pennetta wifi, quindi ti agganci e vai dove vuoi, senza pagare nulla. Ma sarà così adesso, tra poco sarà tutto libero, poi se vuoi qualcosa di particolare, magari programmi nuovi, film nuovi, e a quel punto ti fai il pagamento come stai facendo il canone. Ma la TV è destinata a morire, secondo me, la televisione via coso, via antenna, via satellite, è destinata a morire. La radio ancora un pochettino perché c'è il DAB, c'è il digitale, ma anche quella lì col tempo morirà, anche quello lì, perché poi alla fine le macchine avranno tutti la rete internet dentro la macchina. C'è già un amico mio, la macchina ce l'ha già 3 anni, la macchina ce l'ha già di serie, il Mercedes, la macchina, vabbè, costa un po' di denaro, ti compri più di un appartamento con quella macchina e c'ha già la rete internet attiva e ti connetti alla cosa, ti guardi i film. Lui c'ha due abbonamenti, gli hanno dato con quella macchina lì, ma costa 100, costava, non costa, adesso costa molto di più, costava 140.000 euro quella macchina. Già lo so. Se è presentata così, c'era la non mi ricordo se era la Mercedes o qualche c'era una un tipo di auto che usava la storia Blue Pond, se non dico di quel Blue Pond, addirittura c'era uno che faceva la radio e la baracchina, 23 canali. Non lo so, vabbè, allora io adesso vado via che devo fare cosa, già ci sentiamo quando capita. Saluto anche eventuali qua ascoltoni sul canale 10, cuore da parte mia, ciao ciao, alle prossime. E ciao, ci stiamo domani al limite, stai bene, ciao, alle prossime. Sono qua. Buonasera. Ce n'è caldo il terrazzino? Anzi no, ci sta più, guarda, c'è forse più caldo dentro a casa. Sì, c'ho caldo anch'io qua, figurati. Sono in maglietta, figurati, c'è caldo davvero. Ma perché ho diciamo tutto il giorno in questa camera, quindi secondo la neve ci sto stando fuori che dentro, blu, ma capisco che. Oh, fuori già si sta bene, c'è freschetto. Dentro c'è caldo perché quando tu cominci a battere il sole la mattina presto, capito? Da una parte all'altra, tu c'è, la mattina ce l'hai in salone e la sera ce l'hai in cucina. Il contrario però, Cosa hai detto? Il contrario stavo dicendo. C'è più fresco fuori che dentro. Fuori c'è più fresco che dentro, è logico. Con la finestra aperta. Guarda, se sei dentro a casa, stai tranquillo che già c'è caldo. Sei in cucina che è in salone. Sì, sei queste cose. È finita la benzina. E io sono arrabbiato. È perché sei arrabbiato. Chi sono io? Tu sei la piccola peste. Giulio. Sei la piccola peste. Hai fatto una brava voce, non è che hai fatto la molella il tuo giorno. E sebo, sebo, sebo! È finita la benzina! C'è la benzina e io sono arrabbiato! Ah, è finita la benzina e tu sei arrabbiato! Chi sono io? Tu sei la peste, Giulio. No, io sono Giulio Busto. Sono Giulio Busto. No, sono bello. No, sei brutto, già sei bello. Bello. Se mi parli sopra non ti capisco. E che è finita la birilla e io sono arrabbiato. Già ho capito. Vita la benzina. Cosa hai detto? Chi sono io? uscito e giù giocando con la bicicletta. E via e cambia la bottiglia. Tu già ride. Posso, se parli così veloce, Daniel non ti capisco. È finita la bevilla, e io sono la ghiaccio, è finita la bevilla. Sì, ho capito, ho capito. L'hai già detto. E non si più la bevilla. Ho capito che bevilla è bevilla. Io sono più la bevilla, e io sono più la bevilla, e te ne faccio io, te ne faccio. Ho capito, ho capito. Cambialo, cambialo, è più tranquillo dopo, e ti dorme. Tu sei Babbo Natale. Non ti ricordo queste cose. Tu sei Babbo Natale, l'onfio. Cos'hai mangiato? Di buona pizza al cioccolato? Ho mangiato la benzina! Sì, domani. Tu non mi faccio! Non ha cambiato pannolino! Io! Siamo qui? Benzina! Se mi parli sopra non ti sento! Quando finisco di parlare io parli tu, se no non ci capiamo. È finita la benzina e comunque mamma ha cambiato pannolino. Sì, si è fatto poco veloce già. Cos'è, mandorache? Ho fatto un minuto. Ma con mandorache fa le cose così veloci. E finisce la bevina e io sono la ghiaccio. Aspetta che mi sto bevendo un bicchiere di acqua, se no scende la matta in terra. Va bene, la vino e io sei più la bevina e io sono la ghiaccio. Tutto meglio. Vediamo domani con calma. Sì, a te mi sto abbeverando, sono affogato. Va bene. Tu devi lineare, non lasciare il lineare acceso. Giova, se mi sono dimenticato di dire. C'è il pulsante, c'è scritto on off e poi sopra quello stand by. Schiacci tutti e due e rimangono in linea i corsi, non in basso, ma sono l'altro. Ma è spento, è acceso. Ah, ok, allora va bene, se è spento non c'è problema. Me l'ho dimenticato di dietro, ieri. Da una cosa all'altra me l'ho dimenticato, avevo un capo in fumo da ieri mattina. Guarda, ti capisco, sono i bambini, io devo programmare. Dopo che la rete può anche sbrizzare, è un po' grande, questo è un po' per far uscire un po' che fare. Adesso bisogna a letto, se no, ora fanno partire. bisogna fare così. Non ti fanno uscire di testa, ti fanno uscire. Ormai sta facendo un pochino di freddo adesso, si mi sta entrando un per l'aria adesso, sono tutti giurati il gioco. Andrà bene, andrà bene. Ci vediamo domani, dai. D'accordo, ciao, buona serata, ciao. E altrettanto, ciao.